I

un paraíso que se llama bailando. fast through my life, while the moon remains constant in the sky. The night is holding its breath, inside in silence I'm dead. But if I make it until tomorrow, I know that my fear will be gone, and so I'm waiting for the morning to come. If I say I'll forget you, I'm lying. Looking for you, I'm still waiting. Whatever I do with my life, the moon remains constant in the sky. Just today, I knew what was right, but on this silent day, I can hear my voice inside. It says come into my life. It says come, come. Three.

Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez. Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos nada, Eva. Merhaba, vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo.

things are going to happen. All of your wildest dreams are about to come true.